Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Nuova settimana che comincia, ma quando la squadra vince non si cambia e quindi ritroviamo l'appuntamento consueto con l'Adico, l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Con noi c'è Gianluca Codognato. Ciao Gianluca. Ciao Francesco, allora, grazie alla presentazione. Squadra che vince non si cambia, no? Assolutamente. Che cosa vogliamo raccontare? Oggi abbiamo un caso particolare di quelli che fanno arrovellare il cervello. Sì, sono di quelli che fanno pensare e dire che in Italia, se, soprattutto sul fronte della burocrazia, la strada da fare è ancora molta. E diciamo che rientra tra quelle storie che noi possiamo definire, tra virgolette, simpatiche, non certo per chi l'ha vissuta. Allora, un nostro socio, una persona che poi si è rivolta a noi, ci ha segnalato di aver ricevuto una raccomandata proveniente da Equitalia, quindi chiaramente non una raccomandata con buone notizie, all'interno della quale, insomma, si segnalava la necessità di pagare una serie di multe stradali per un valore totale di 1.200 euro. Fin qui nulla di strano si dirà, sì. Però guardando bene, insomma, la missiva, si è reso conto il protagonista della vicenda, un ragazzo mestrino, si è reso conto che in realtà le multe in questione erano state prese a Roma e nel 2012, al che chiaramente si è fatto una domanda. Primo, si è detto: io non sono mai stato a Roma, e quindi la cosa già mi pare strana. Oltretutto l'auto l'ha acquistata nel 2015, ecco. come fa quindi ad aver preso le multe nel 2012? Appunto, e queste sono quelle cose per cui uno dice: beh, è già automatico che la storia si chiude qui. Io non avevo la macchina nel 2012, cosa venite a chiedermi i soldi a me? Invece poi, ahimè, le cose non sono mai come dovrebbero essere. Infatti, Francesco, perché al di là del cercare di capire come sia nato un errore di questo genere, perché qua non si tratta neanche naturalmente di una clonazione di targa, perché qua stiamo parlando di un'auto nuova immatricolata nel 2014 e venduta nel 2015, quindi la multa nel 2012 non può essere neanche legata a una targa. Quindi chiaramente la vittima di questo errore ha pensato: in un secondo risolverò il problema, e invece no, si è dimenticato che appunto siamo in Italia. E quindi non basta andare da Equitalia con il proprio libretto di circolazione mostrando l'incongruità, insomma, della sanzione, ma bisogna assolutamente fare altri procedimenti. Quindi giustamente la persona si è rivolta al nostro ufficio legale, il quale ha scritto una lettera, quindi una diffida nei confronti del Comune di Roma, in uno specifico della Polizia Municipale e anche ad Equitalia, ma in questo caso chiaramente la richiesta è rivolta soprattutto al Comune di Roma e alla Polizia Municipale, e chiaramente adesso attenderemo le loro risposte, sempre considerando che teoricamente la persona in questione è a rischio di fermo amministrativo. Capiamo l'assurdità della cosa, insomma. Certo. E se questo fermo amministrativo non verrà rispettato, va incontro a sanzioni ancora peggiori, che possono superare i 3.000 euro, insomma. Una storia assurda, una vicenda kafkiana. Mi viene da pensare che magari nella targa della macchina che ha fatto tutte queste multe nel 2012 ci fosse un numero poco leggibile che in qualche modo poi è andato a finire come riferimento a questo signore vostro. È probabilmente l'unica spiegazione possibile, perché noi adesso in questo momento non ne vediamo altre. Magari, ecco, ci riserviamo, Francesco, di darvi una spiegazione quando la riceveremo anche noi, perché davvero, insomma, restiamo basiti. Ripeto, quello che ci dà fastidio è sono tutti i problemi che sono stati provocati a questa persona, perché questa persona lavora a un negozio, ha dovuto assentarsi più volte dal negozio, ha dovuto affrontare anche una piccola spesa per procedere alla diffida, e quindi, insomma, non ci sembra un modo giusto, insomma, di lavorare da parte di certe amministrazioni. Ecco, io chiederei un rimborso per procurato allarme. Anche perché chiaramente quando ti trovi 1.200 euro da pagare così da un giorno all'altro, entro pochi giorni, insomma, un coccolone viene di sicuro. Quindi procurato, sì, allarme ci sarebbe assolutamente. Va bene, facendo gli auguri insomma a questo vostro socio, chissà che le carte alla fine trovino la giusta strada e tutto torni a posto come dovrebbe essere. Ringrazio te Gianluca per essere stato anche oggi con noi nell'appuntamento di Blu Radio Veneto con l'Adico, ma ci ritroviamo ancora tra qualche giorno. Grazie Francesco, di sicuro. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.